tutta la... Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarsi. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di Antonio e Feli. Feli? Proprio così è il tuo nome, Feli? Felix, ah ok, Felice. Ok. Felice Felix, si chiama di Felix. Di nome di fatto. Una garanzia ragazzi, da dove venite? Provincia di Modena. Modena, Sassuolo, città delle piastrelle. Brava. Dobbiamo dare una mano a questa Romagna in difficoltà. Certo ragazzi. Io ho parecchi, che... diciamo, fotografi qua fuori, però, che vi stanno osservando. Siete famosi? Siamo famosi, molto. E io non lo so, chi siete? Cosa fate? Felix. Diciamo che abbiamo un ampio curriculum. Brava. Mi fa piacere. Siamo molto seguiti. Di cosa vi occupate, ragazzi? Dipende cosa. Di cosa parli? No, della vita, voi cosa fate di bello? Lavoro, mi diverto. E mi diverto. Tu invece? Ma lavoro. Il lavoro, anch'io lavoro, ma che lavoro? Il lavoro è se una, potete dire. È una geometria. È una geometria. Io sono un impiegato. Soft. 8 ore, timbro, vado a casa. E te ne vai. E poi fa serata. Si parte e si va ola. Lui è il migliore. Magia. Quello era Franchino, dai, lascia stare. Allora, e voi scommetto che siete gli amici dello sposo. Gli amici dello sposo. Sì, è vero. Alessio. Un saluto ad Alessio, che l'abbiamo perso adesso. Ha avuto la buona idea di sposarsi. Ogni tanto ci sa che qualcuno si sposa. Qualcuno crede ancora nell'amore, credo. Da noi ogni quattro mesi uno si sposa da noi, quindi. Mamma mia, diciamo che non vi va bene. È un po' impegnativa la cosa. Comunque sì, è un bocca al lupo e auguri ad Aleto ancora. Congratulazioni, sì. Bravo. Anche perché ci vuole coraggio sposarsi, eh? Sì. Guarda come vi osserva. Eccolo qua. Eccolo lui. Ragazzi, non so se regge ancora un altro po'. No, regge. No, deve arrivare fino alle 6 del mattino. È uno dei ragazzi più seri che abbia mai conosciuto. Deve arrivare fino alle 6 del mattino questo. Ho un'altra domanda da farvi. Come vi è stata stamattina? So che siete andati sotto le cascate. Brava, come fai a saperlo? Chi te l'ha raccontato? Io so tutto. Ma vedi che ci seguono tutto il mondo allora, Avete avuto paura, ragazzi? Io lo ammetto, sì. Praticamente io sono un ragazzo di 100 kg, lo ammetto. E c'era la ragazza che mi doveva tenere con la corda. E al primo lancio che mi doveva calare con la corda, l'ho vista che tipo lo scaraventata in aria. Ho detto, porca puttana, questa non mi tiene. Non mi tiene. Vado giù. Invece questa qua era. Invece l'ha tenuto. Era una guida alpina quei controcavoli e mi ha tenuto. Aveva forza per tenerti. Ovvio, sì. Tu invece? Ma io sono un supereroe. Un supereroe? È un supereroe. No, è andata tutto bene, Meno male, dai ragazzi. Non ci siamo però fatti male. Lo sposo è tornato a casa. Ha avuto un po' di paura, ma è sano e salvo. Meno male. Altrimenti la sposa si preoccupa se non glielo portate. Il 3 di giugno, eccolo qui. Ha una faccia, diciamo. Ha la faccia di quelle che dice. Io lo vestirei adesso da matrimonio con lo sposo vestito e lo manderei all'altare. No, così. C'è il vestito dei Teletubbies. Non l'ho visto vestito da Teletubbies. Non l'avete vestito, ragazzi? Vabbè. Allora la prossima volta vestirete qualcun altro da Teletubbies. Il prossimo. Quello sposo. Che sta facendo il video. Ah, bene. Quello bene. Che sta facendo il video è il prossimo. Va bene, allora vi aspettiamo, ragazzi, per un'altra serata di divertimento, va bene? Grazie. Un saluto a tutti e buona serata. Buona serata, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.